Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei. E che coraggio avrei. Massimo, è chiaro che volerei. Zingaro, libero, tutto il mondo girerei. Andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica a parlare con l'America. E se non mi abbattono, si parlerei. Angelo, se io fossi un angelo, con lo sguardo biblico li fisserei. Vi do due ore al massimo, poi sulla testa vi piscierei. Sui vostri traffici, sui vostri dollari, sulle vostre belle fabbriche. Sento che, sono sicuro che, io so che gli angeli.